bella, che ci importa del mondo. Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già avvenuto, scritto, corretto, interpretato dagli altri meglio che da te. Bella, non ho mica 20 anni, ne ho molti di meno, e questo vuol dire, capirai, responsabilità. Perciò volami addosso se questo è un valzer, volami addosso qualunque cosa sia, e abbraccia la mia giacca sotto il glicine e fammi correre. Inciampa piuttosto che tacere, e domanda piuttosto che aspettare. E stancami e parlami e abbracciami. Guarda dietro le mie spalle e poi racconta e spiegami tutto questo tento nuovo che arriva con te. Vedi pulito, pettinato, o proprio all'aria di un campo rifiorito, e tu sei il genio scaltro della bellezza che il tempo non sfiora. Eccolo il quadro dei due vecchi pazzi sul ciglio di prato di cicale, con un'orchestra che suona a fili d'erba e fisarmoniche. Ti dico bella, che ci importa del mondo. Abbracciami, fruga dentro le mie tasche, poi perdonami, sorridi, guarda questo tempo nuovo che arriva con te. Quanto tempo arriva con te.